in primo piano. Mercoledì 8 dicembre, dunque, l'apertura del Sole 24 Ore. L'Europa va a caccia di evasori, è un accordo sul, contro l'evasione fiscale a livello europeo. Poi le aperture dei giornali generalisti si distinguono, c'è cioè chi sceglie l'arresto di Mr. WikiLeaks. WikiLeaks arrestato Assange, combatto le bugie dei governi per Repubblica. Assange in cella, vado avanti, questo per la Stampa, mentre il Corriere alla Scala, l'appello e il trionfo. Barenboim legge la Costituzione contro Italia e la cultura. Questa è l'apertura del Corriere, mentre Libero, Fini, se perdi vai a casa. Il Fatto Quotidiano sulla vicenda Rai, Minzolini ci querela ma porti le note spese in tribunale. Il Giornale, i droga parti democratici, una vicenda di bufera sul PD in Basilicata. Rivolta alla Scala invece per l'Unità. Vedremo qualche altra apertura più avanti. Intanto io voglio partire da un paio di segnalazioni. La prima dal Sole 24 Ore, pagina 25, sul territorio italiano. Italia in difesa contro frane e alluvioni. Cari italiani, questo articolo andrebbe stampato, letto tutti i giorni, perché poi dopo, quando succedono le stragi, le tragedie, si dice ve l'avevamo detto. Italia in difesa contro frane e alluvioni. Sapete, secondo l'ultima ricerca di Legambiente, il rapporto ecosistema, quanti sono i comuni italiani a rischio idrogeologico? Più dell'80%, 80%, l'82% per la precisione. Circa 3 milioni e mezzo di italiani convivono col pericolo di frane e alluvioni. Il neo capo della Protezione Civile Gabrielli ha detto è criminale costruire in diverse zone d'Italia. In un terzo dei casi, nel 31%, ci sono interi quartieri delle nostre città in pericolo. Nel 54% del campione delle aree rosse ricadono fabbricati, insediamenti industriali. Nel 19% vi sono edificate strutture pubbliche come scuole, ospedali. In zone a rischio frane e alluvioni. Francesco Nariello ne parla a pagina 25 del Sole 24 Ore. Poi, ripeto, si dice non si sapeva quando poi avvengono le tragedie. Invece si sa tutto, come al solito in Italia. Poi mi dicono, dici sempre notizie negative. Ma non è che dico notizie negative, uno le cerca le notizie positive sui giornali. Ci sono, ma si vanno a trovare con il lanternino, forse. La seconda notizia di cui voglio citare: comincia a crescere la polemica sulle manifestazioni capeggiate dalla Cina contro la premiazione del premio Nobel per la pace. Quest'anno è andato il dissidente, così definito, cinese Liu Xiaobo. E la Cina che ha fatto? Ha ordinato ai paesi, la Cina diserterà la cerimonia di consegna del premio Nobel per la pace, ovviamente. Ma la Cina, e come fa sapere Avvenire a pagina 7, ha anche ordinato ai paesi suoi alleati di disertare la cerimonia. E per ora sono almeno 18 i paesi che diserteranno, secondo il Comitato per il Nobel per la pace, diserteranno e boicotteranno la premiazione. Andrebbero stampati e messi, non dico al bando per carità, ma andrebbero veramente messi i nomi a caratteri cubitali di questi paesi insieme alla Cina, il Pakistan, il Venezuela, Cuba, le Filippine, il Kazakistan, l'Iran, l'Arabia Saudita. Ne leggo alcuni che sono citati da Avvenire a pagina 7 nell'articolo di Luca Miele. Perché la Cina ha ordinato non andate a Oslo. Poi chi c'è anche? L'Iraq, il Sudan, l'Egitto, l'Afghanistan, la Russia, l'Ucraina, la Serbia, la Tunisia e il Marocco e la Colombia. Forse li ho citati tutti. Paesi che non parteciperanno alla cerimonia d'assegnazione del Nobel della capitale norvegese a Oslo, perché è stato dato a un personaggio che combatte per i diritti umani in Cina, e questa cosa in Cina non si fa. Ieri c'è stata la prima alla Scala di Milano, è tradizione, Sant'Ambrogio, il 7 dicembre c'è la prima Scaligera. E è solo che quest'anno si è tramutata. Vabbè, intanto ci sono tutti gli articoli sul trionfo wagneriano di Daniel Barenboim, il direttore d'orchestra, che però ha fatto anche un qualcosa che fa molto discutere. Intanto ci sono stati begli scontri prima, il tentativo di l'assalto, titola così per esempio il giorno. L'assalto è perché si è tentata la contestazione, cioè c'è stata una contestazione con scontri anche della polizia, momenti di tensione sociale. Qualcuno ricorda il 68, il lancio di Mario Capanna, degli ortaggi, delle uova, diventato uno dei simboli del 68 in Italia. E poi ieri, quando alle 17 Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, è stato salutato da un lungo applauso, si abbassano le luci, ma Valchiria non comincia, perché Daniel Barenboim si sporge dalla buca, si volta verso il palco reale dove c'è Napolitano seduto con la signora Clio e cita l'articolo 9 della Costituzione, quello che promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca, la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione. Parole essenziali e forti, ha detto il capo dello Stato. L'appello del maestro scuote la platea, anche pagina 3 di Repubblica. Natalia Aspesi, col pubblico che grida viva il presidente. Insomma, Daniel Barenboim ha fatto questo accenno ai cosiddetti tagli alla cultura, di cui si parla tantissimo. Tra l'altro il Corriere della Sera fa notare in questa serata particolare, a pagina 5, l'assenza di Bondi, che è un caso, con Lisner che dice avrà avuto altro da fare, ma non voglio polemizzare. Certo, l'assenza del ministro alla cultura si è fatta sicuramente sentire in un momento tradizionalmente, culturalmente così importante per il paese ogni anno. Rivolta alla Scala è anche il titolo di prima pagina dell'Unità, con l'editoriale consueto del direttore Concita De Gregorio, a pagina 2, lo sfacelo e gli insulti. Inizia con la citazione dell'articolo 9 della Costituzione, ci vogliono 12 secondi a leggerlo. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Un impegno straordinario a incarnarlo, uno straordinario disimpegno a disattenderlo, un'alzata di spalle non dipende da me. Così scrive Concita De Gregorio. Succede dopo questo, dopo questa iniziativa del maestro Barenboim, che nel giro di pochi minuti, a nome della maggioranza di governo, un signore di nome Daniele Capezzone risponda a Daniel Barenboim, il cui impegno di pacificazione nei fronti più caldi del globo non ha probabilmente alcuna nozione, a tacere dei talenti. Qualcosa nella vita per aver voce in capitolo bisognerebbe pur aver fatto, in effetti. Succede insomma che Capezzone trovi la lettura della Costituzione un comizio antigovernativo, le espressioni di preoccupazione, i due minuti di odio orwelliani. Bondi, il ministro della cultura che ha scansato la sfiducia per provvidenziale serrata delle Camere, non c'era. Concita De Gregorio molto, molto dura sulla presenza, sull'assenza di Bondi e su questa vicenda della Scala. Poi c'è anche la vicenda delle contestazioni, che hanno assunto un tono davvero anche singolare. Lo sterco gettato davanti a casa del ministro della cultura Gelmini. Tanto che il secolo XIX intervista, pagina 3, Dario Fo, premio Nobel per la pace. No, sì, per la pace. Per quello è il dissidente cinese. Premio Nobel per la letteratura. Dario Fo dice: giovani come Arlecchino sfidano il potere con la cacca. Questo è il titolo a pagina 3 del secolo XIX. Attenti a mortificare i giovani, i lavoratori, attenti all'arroganza che priva dei diritti. Può starci anche la disperazione. La gente, dice Dario Fo, comincia ad andare oltre il livello del ragionevole. Qui si crea il disastro. Al che il secolo, con Vittorio De Benedictis, chiede: ma perché una provocazione del genere, il lancio dello sterco? Arlecchino, alla fine del 1500, quando è nato, entrava in scena, si calava le braghe e faceva la cacca e poi la gettava al pubblico. Qualcuno sveniva, il pubblico si indignava, ma c'era il trucco, era marmellata o cioccolata, il pubblico non lo sapeva, ma il re sì, e applaudiva. Serviva a provocare un pubblico snob e distaccato. Ma calata sull'oggi, Dario Fo. Beh, e Dario Fo dice: bisogna partire dalla progressione. Se vuoi convincere il potere al dialogo, loro se ne fregano, vanno in Parlamento, lo fanno lo stesso, lo mettono sulla forza. Non vogliamo discutere con te, avrai quello che decidiamo di darti e ti portiamo via i soldi. Soldi che diamo alle università private. Voi siete di terz'ordine, sarete sempre costretti all'elemosina. Ed ecco, che si trascende. Ma chi ha provocato tutto questo? Chi ha sfottuto e umiliato? Lo abbiamo detto molte volte, attenti a non esagerare, a non abusare dell'arroganza che provoca risentimenti terribili. E certo, però, c'è preoccupazione per quello che sono alcuni episodi che si sentono un po'... le contestazioni, ora lo sterco a casa del ministro della cultura e alla cultura, al ministro dell'istruzione Gelmini, forse l'ho chiamata la cultura anche prima, ministro dell'istruzione Gelmini, oggi confondo le cose, Nobel della pace, Nobel della letteratura, cultura, istruzione, e vabbè. E però c'è sicuramente preoccupazione per queste manifestazioni anche a tratti violente, ieri gli scontri alla Scala. E la politica? E la politica è a 6 giorni dal D-Day. E quindi Confini ieri a Ballarò dice la sfiducia ci sarà. E qui è tutto il gioco di riposizionamenti. I riposizionamenti. Chi voterà che cosa? Oh, oggi si deve registrare che c'è un parlamentare del PDL, tale Galioto, Vincenzo Galioto, 55 anni, al Corriere della Sera, pagina 11, dice serve un governo forte, dico no al bis di Berlusconi. Berlusconi dovrebbe fare un passo indietro. E quindi attenzione, c'è uno del PDL che va recuperato, cari maggiorenti del PDL. E poi ci sono due dell'Italia dei Valori, Razzi, citati anche ieri da me, Razzi e Scilipoti, che stanno manifestando qualche mal di pancia. Forse voteranno la fiducia, ma come, eletti nell'Italia dei Valori, il partito più anti-berlusconiano, forse non voteranno la sfiducia. Di Pietro sul Corriere, vedremo quanti Giuda ci sono tra i miei. Parla proprio di Scilipoti e di Razzi, getta acqua sul fuoco per tutta l'intervista a Monica Guerzoni. Su Scilipoti dice: ha tutta la mia fiducia, è un valente medico omeopata, un bravo deputato, sono convinto che continuerà a lavorare per il partito, ho pranzato con lui, tutto tranquillo. E Razzi? Razzi è la prima volta che fa politica, ma è una bravissima persona che con la legge elettorale per l'estero ha ottenuto quel grappolo di voti che gli hanno permesso di rappresentare gli italiani. Non ho alcun problema per le liste. Il 14 è un voto troppo importante per pensare che qualcuno possa comportarsi come Giuda. Non temo assolutamente brutte sorprese. Insomma, un Antonio Di Pietro che parla così, no? Come non l'avete mai sentito, anche se in questa intervista. In realtà pare che il terrore si stia spargendo all'interno dell'Italia dei Valori, tanto che questo Scilipoti ha detto: sono terrorizzato, il capogruppo dell'Italia dei Valori mi ha minacciato, mi ha detto di avere concordato col PD la mia rovina se non voto la fiducia, la sfiducia. Ti copriamo di fango, ti distruggiamo, faremo sapere a tutti che sei un Giuda. Adesso ho paura, e se mi sparano un colpo? E questo è anche il terrore che serpeggia nel Parlamento. Chi vota con chi? Ci sono i due dell'SVP, i due voti, i due deputati, Brugger e Zeller, che ieri si è sparsa la voce anche sul Fatto Quotidiano che potrebbe passare una legge che dà più potenze, dà più controllo sul Parco dello Stelvio alle province di Trento e Bolzano. Questo perché? Per accaparrarsi il voto dei due dell'SVP. Ora l'SVP dice no, noi ci asterremo, lo Stelvio non ci è stato mai offerto, il Parco Nazionale dello Stelvio, e ci mancherebbe, insomma, che lo Stelvio magari è patrimonio un po' di tutti noi. Sta di fatto che intanto l'altra vicenda è che Italo Bocchino, il più anti-berlusconiano in questi tempi di dichiarazioni, si è incontrato segretamente con Berlusconi. Questa cosa la troverete confermata da tutti i giornali. Appuntamento segreto: Bocchino incontra Berlusconi, questa pagina 9 di Libero. Bocchino dal premier a Palazzo Grazioli, giallo sul contatto con Letta e Alfano, questo il retroscena di Francesco Bei su Repubblica. Dovunque c'è, anche sul Corriere, però Bocchino smentisce: figurarsi se io vado a incontrare Berlusconi. In realtà una Audi con i vetri completamente oscurati si è infilata a tutta velocità ieri dietro il cortile di Palazzo Grazioli, racconta Francesco Bei su Repubblica. Il pesante portone di legno viene chiuso per impedire a qualche curioso di notare quel personaggio che scende frettolosamente dall'auto e sale le scale. La ragione di tanta riservatezza è che quel Mister X è proprio Italo Bocchino, l'uomo nero del Cavaliere, il pretoriano a cui in questi mesi Fini ha affidato il compito di demolire Berlusconi. Trattativa? Chi lo sa? Sta di fatto che per quel che si vede, per esempio chi ha visto Porta a Porta un paio di giorni fa tra Italo Bocchino e La Russa, due ex colonnelli di Alleanza Nazionale, sono volate parole grossissime. Marcello Sorgi sulla stampa, che era lì in studio, racconta quello che è andato in scena addirittura durante la pubblicità con Italo Bocchino, che ha tirato fuori il cellulare e Ignazio La Russa ha fatto vedere guarda cosa ha fatto la campagna di Libero. Libero ha denunciato i cosiddetti traditori, dicendo scrivete ai traditori che voteranno contro Berlusconi. Mi arrivano messaggi, sms, gente che augura il cancro al cervello a mia figlia. Ha rinfacciato tutto questo alla Russa e la Russa gli ha detto calma Italo, se mi dovessi indignare come vuoi tu da anni sarei sempre indignato. Insomma, la lite infinita degli ex colonnelli. Io ve l'ho detto che il tenore sarà sempre più alto e chissà che succederà il 14. L'Unità invece ci fa sapere che nel PD scoppia il caso di un deputato, Milana, che vuole lasciare il PD e andare con Fini. Si capisce più niente, veramente più niente. Mentre Gianfranco Paglia, che è un onorevole passato ai finiani, è stato ferito ed è rimasto su una carrozzina in Somalia, forse lo ricordate, militare della missione italiana Ibis in Somalia, scrive, prende carta e penna e dice al direttore di Libero darmi del traditore, l'accusa più infame, io che sono un soldato che ho giurato solo sulla patria, cambiare partito non è tradire, parola di soldato. E Maurizio Belpietro, il direttore, gli risponde è un tradimento anche quello degli elettori, e via così. E poi chi ci si è messo? Renzi, ma certo, Renzi, che lo sapete, è andato a incontrare Berlusconi ad Arcore e il PD dice forse era meglio se lo incontrava a Palazzo Chigi invece che andare a casa sua per parlare poi di che. E Renzi, il sindaco di Firenze, il capo dei rottamatori del partito, così si è autodefinito, fa un paio di interviste a Libero e alla Stampa. La Stampa parla con Federico Geremica e dice io parlo con Silvio, voi volete allearvi con Fini, cioè dice il Partito Democratico accusa me che vado da Berlusconi, ma il Partito Democratico si vuole alleare, votare la sfiducia con Fini. È una cosa che veramente io non capisco. Poi mi ha invitato ad Arcore Berlusconi, io sono andato, che dovevo dirgli, ci vediamo a Monza allo svincolo dell'autostrada? Berlusconi si è arrabbiato, l'ho capito, che devo fare, ma lo tranquillizzo, con Berlusconi non ho ballato il bunga bunga. C'è un Renzi sempre spettacolare nelle sue interviste. E com'è andata con Berlusconi? Non mi ha detto che siamo simili, non abbiamo parlato di rottamatori, non abbiamo parlato del PD, è stato riferito questo. Ecco, rivelando l'incontro, qualcuno forse pensava di farmi uno scherzetto, magari qualcuno del PDL delle mie parti, al quale il faccia a faccia è andata di traverso. Senta, che le ha detto Berlusconi della crisi? Quello che si legge sui giornali, non dico di più nemmeno sotto torchio. Qualche battuta almeno l'avrà fatta, zero. Ma una battuta, vabbè, ha fatto una battuta. Oh, ce la dica, Berlusconi senza una battuta, ci dica la battuta. Eccolo qui Renzi, si parlava di calcio, lui si lamentava un po' di possesso palla del Milan, io gli ho detto ma lo lasci lavorare Allegri che non è nemmeno comunista, e lui comunista, peggio che comunista, è livornese, capisce? Questa per favore però non la scriva, sennò Berlusconi si incazza, ovviamente tutta scritta sulla Stampa, anche su Libero, peggio stare con Fini che vedere Silvio Berlusconi, questo è il sindaco Renzi. E prima della battaglia finale in aula il coro delle voci bianche per concludere la pagina di politica. Mario Aiello oggi sul Messaggero racconta di questa settimana di vacanza delle Camere. Alla Camera c'è una settimana di vacanza, Camera chiusa, perché? Tutto chiuso in attesa della fiducia, anche il tema del nostro sondaggio, trovate tutto questo giusto. E Mario Aiello si chiede, queste ennesime due settimane di vacanza, prima del D-Day del 14 dicembre, prima delle ferie natalizie, i deputati le stanno spendendo in lavori socialmente utili, come chiede per esempio loro la presidente dell'Associazione delle Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi, Simona Bellini, che, dico io, sarà nostra ospite alle 8:30. Aiutano le vecchiette ad attraversare la strada per farsi perdonare dei soldi che prendono a sbaffo anche a camere chiuse, ma che sono giorni di volontariato per tutti, sì, volontariato dei deputati a favore di se stessi. Insomma, facciamo un po' di demagogia e di populismo sano alle 8:30, parliamo delle camere chiuse per un'intera settimana per il voto di fiducia. Che ne pensate? È giusto secondo voi? Votate su radio24.it. Alla domanda che io vi ponevo da qualche giorno, che fine ha fatto Julian Assange? Sapete che ora c'è una risposta. Julian Assange era nascosto a Londra, pare nel circolo della stampa, ironia della sorte. Il circolo nel club dei giornalisti finanziato da George Soros. Ebbene, ieri si è consegnato a Scotland Yard perché pende su di lui un'inchiesta, due accuse di stupro in Svezia. La vicenda, io già l'avevo accennata, un paio di rapporti di preservativi che si sono rotti, una cosa un po' strana, anche il Foglio dice un'accusa un po' strana. Comunque, due donne, un'accusa di stupro, ecco l'incubo svedese di Julian, a pagina 7 di Repubblica. Il Daily Mail è andato in Svezia, perché nessuno conosce le accuse di preciso, però il Daily Mail è andato lì e ha ricostruito l'incontro di Julian Assange con tale Sara e con tale Jessica, due incontri prima consenzienti, poi ha dormito con entrambe si sono lasciati dicendo ci rivediamo, però insomma in un caso Julian Assange prima si è rotto il preservativo, in un altro caso il preservativo una volta l'ha usato, una volta no. Sta di fatto che le due donne si sono telefonate, si sono conosciute perché era un convegno pubblico, cioè prima è andata a letto con una, poi è andata a letto con un'altra, poi la seconda temendo di aver preso una malattia perché non ha usato il preservativo ha telefonato la prima, e la prima ha detto ma sai che c'è, è venuto a letto anche con me, sai che facciamo, andiamo tutti a denunciarlo. Questo è il riassunto. Due donne, un'accusa di stupro. Sta di fatto che Julian Assange è andato in tribunale e ha detto il mio indirizzo è una casella postale, lei si chiama Julian Assange, ciò è corretto. Questa è stata la sua risposta. L'indirizzo è una casella postale. E poi sa che c'è una richiesta in corso di estradizione dalla Svezia, lo so e non sono disposto ad andarci. Questo è quanto per la prima udienza, poi si vedrà la battaglia legale. Il manifesto in prima pagina mette la vignettona di Vauro, WikiLeaks arrestato Assange, c'è un interrogatorio, la lampada puntata su di lui e il terrorizzato interrogatore che gli dice «non parlare». Come dire, per carità, che danni ne hai già fatti. Per quel che riguarda l'economia, io voglio sottolineare la prima pagina del Sole 24 Ore, si parla di evasione fiscale, ma non solo. Il giorno in cui, tra l'altro, ecco, la politica ha dato un segnale vero, cioè concreto. Non è che c'è solo la Camera chiusa, il Senato si è lavorato, si lavora, il sì del Senato, la finanziaria e legge, trovate tutto a pagina 5 del Sole 24 Ore, le novità contenute nel lavoro, fisco, risorse finanziarie, gli enti locali, il bonus del 55%, un pacchetto sui giochi, quelli, le macchinette, no? E sulle scommesse sportive. Ci sono tante novità. Per cui vi invito il Sole a pagina 5, come di consueto c'è scritto tutto. Poi l'evasione fiscale, c'è un accordo europeo tra i ministri delle finanze dell'Unione Europea, ne parla a pagina 2 Adriana Cerretelli a Bruxelles, sul rafforzamento della cooperazione nelle lotte alle frodi fiscali e alle evasioni, per esempio gli scambi di informazioni, alcuni saranno automatici, riguarderanno i dati a partire dal 1 gennaio 2011, un paese dell'Unione Europea potrà chiedere informazioni al partner su specifiche persone, non sarà possibile opporre il segreto bancario alla richiesta di informazioni avanzata da un paese membro. Insomma, tante novità per contrastare l'evasione fiscale a livello europeo. Che dire, quanto abbiamo? Un minuto? Un minuto, dice Peter, forse qualcosa di più, non mi ricordo quando dobbiamo chiudere, ma me lo farà capire. C'è molto di cronaca sulla vicenda ancora di Yara Gambirasio, che trovate sui giornali, con il marocchino Mohamed Fikri che esce dal carcere e dice ora solo una guardia giurata si è scusata, ora chiederò i danni. Ebbene sì, per ingiusta detenzione, per la verità, cioè l'ingiusta detenzione è stata un giorno, che è anche troppo, per carità, però ci sono persone che stanno in carcere ben di più. Sta di fatto che, sentito dal Corriere da Marco Imarisio, che ieri era nostro ospite, dice «Voi italiani razzisti, non sta a me dirlo, per me è stato difficile solo il primo anno, poi che ero in Italia, poi mi sono abituato, se sto qui da 5 anni c'è un motivo, nessuno mi ha obbligato». C'è tutto il giallo di questa traduzione, i periti, il dialetto usato, il dialetto marocchino che è stato tradotto male, con il PM che dice non dormivo più la notte a pensare che ci fosse un innocente in carcere, il PM Letizia Ruggeri. C'è da dire che nell'abbaglio almeno ha funzionato il fatto che alla fine ci siamo accorti, insomma, che non c'entrava nulla ed è stato subito rilasciato. Basta stress da regali, questo è più che un articolo di Libero a pagina 35 con il quale voglio concludere una sorta di imprecazione positiva. Basta stress da regali, per 7 italiani su 10 la scelta dei doni è fonte di ansia. Ma perché dobbiamo farci venire l'ansia per fare i regali di Natale? E se volete, su Libero, pagina 35, ci sono anche i consigli per farsi passare l'ansia a seconda di che tipo siete. Primo consiglio è: non fate i regali, credo. Ci fermiamo qui, Peter, giusto? Ci fermiamo qui. Allora diamo la linea al GR, voi votate il sondaggio sulla Camera chiusa una settimana, che ne pensate? È giusto oppure no il GR?